benvenuti ad una nuova puntata di Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di Indie Media Calabria, programma che potete ascoltare solo su Transizione di Fase. In questo numero ci occuperemo della difesa di spazi sociali e vi racconteremo quello che è successo in Spagna e più precisamente a Bilbao. Parleremo poi ancora una volta di Notav, in particolare ricorderemo quello che è accaduto alle due compagne, alle due giovani manifestanti Notav arrestate e non ancora rilasciate nemmeno ai domiciliari, e vi parleremo di come sia pericoloso di Rai parlare di Notav. Ma continueremo ancora a parlare di quello che accade in vista del 15 ottobre, ricordando due episodi, quello che succede a Roma con il sindaco Alemanno che vieta in alcune zone della città le manifestazioni, i sit-in e ogni altra misura che volge alla contestazione, e poi parleremo di quello che accade invece a Cosenza in vista del 15 ottobre con una serie di appuntamenti che prevedono per ogni venerdì delle manifestazioni in piazza. E infine ricorderemo quello che accade in Calabria per quanto riguarda i lavoratori che erano saliti su una gru a Cutro. Continuate dunque ad ascoltare Transizione di Fase e continuate a seguire Indie Media Calabria ed Indie Media Italia, i siti di informazione indipendente dove ciascuno di voi può pubblicare liberamente le proprie iniziative, le proprie notizie, le proprie analisi ed opinioni. Dalle pagine di Italy Indie Media leggiamo di uno sgombero effettuato il 21 settembre scorso alle 5 del mattino nella città di Bilbao. Un ingente numero di poliziotti che facevano uso addirittura di carri armati, di elicotteri e dei classici lacrimogeni, l'arma preferita in Europa contro i cittadini inermi, veniva dunque sgomberato alle 5 del mattino questo centro sociale, il Cucuzza, ci scusiamo per la pronuncia. Venivano dunque arrestati 25 militanti e numerosi di essi rimanevano colpiti e feriti. Questo sgombero colpisce per la violenza inaudita che è stata utilizzata. Ora questo centro sociale verrà demolito, ma la cittadinanza non si arrende. Infatti alle 17 del pomeriggio, sempre dello stesso 21 settembre, nella città si è avuto un grande corteo di solidarietà al centro sociale. Questo avvenimento ci fa riflettere proprio su quella che è la crisi globale, una crisi che non si abbatte soltanto sui conti, sui salari e impone nuove tasse, ma è una crisi che impone anche una maggiore restrizione della libertà sociale, della libertà collettiva. Quindi vediamo come già in agosto molti spazi sociali venivano colpiti, pensiamo a quello che accadeva nelle università della Calabria e in quella di Palermo, ma pensiamo anche ai vari sgomberi che si erano succeduti fra luglio e agosto nella città di Roma. Ora anche questo avvenimento di Bilbao ci fa riflettere su come le forze dell'ordine telecomandate dalle forze di governo cominciano a minacciare sempre di più l'aggregazione sociale. Quindi occorre invece tenere alta la tensione e continuare a difendere gli spazi sociali. And I never tell my life. This is now the end. When I cling to you and cry, and I never trust in E continuiamo ancora a parlare di Notav, soprattutto parliamo dell'arresto delle due ragazze di cui vi abbiamo già dato notizia nella scorsa puntata di Indie Radio. Questa volta su Indie Media Italia è pubblicato un articolo che ci ricorda quello che accade in una trasmissione della televisione pubblica, cioè Che tempo che fa. Infatti è bastata una battuta di Luca Mercalli sull'alta velocità Torino-Lione e sulle ragioni dei Notav per sollevare un autentico polverone sulla trasmissione di Rai 3. Un solo minuto in chiusura all'intervento di domenica sera, Mercalli si è definito infatti indignato per l'arresto di due attiviste del movimento, Elena e Marianna, 10 giorni fa, durante gli ultimi scontri attorno al cantiere di Val di Susa. I primi ad attaccare? I deputati del PD, chiaramente, Giorgio Merlo, vicepresidente della commissione di vigilanza RAI, e Stefano Esposito, i quali dicono che anche per Fazio dovrebbe valere il principio che la propaganda aperta deve essere più contenuta, almeno quando si toccano temi delicati. Siamo contenti della permanenza in RAI di Fazio, ma ci chiediamo se la propaganda contro la TAV sia un modello di giornalismo da servizio pubblico. L'onorevole Esposito rincara addirittura la dose e dice che ora Fazio dovrebbe invitare gli agenti feriti o gli operai del cantiere minacciati. Non è possibile che Mercalli faccia l'avvocato dei Notav con i soldi dei contribuenti. Ebbene, potremmo aggiungere noi che non è possibile avere una sinistra che lasci queste dichiarazioni. Dunque il PD dichiara apertamente la sua natura e si allei direttamente con Berlusconi e i suoi amici, probabilmente avrebbe più successo. Ma questo non basta, quello che è successo in RAI e le gravi dichiarazioni di esponenti del PD non sono le uniche note dolenti di questa già triste vicenda, cioè la vicenda degli arresti di due donne che protestano civilmente contro una azione che deturpa il loro territorio. Infatti il procuratore capo di Torino, Giancarlo Catelli, leggiamo sempre su Indimed Italia, si è presentato sorpresa nell'aula del Tribunale del Riesame dove si discuteva l'istanza di scarcerazione per Elena, conosciuta come Nina. La donna infatti è accusata di presunte violenze avvenute intorno al fortino di Val di Susa lo scorso 9 settembre, come dicevamo. Ma c'è da dire che alla Garberi, cioè ad Elena, viene contestato solo il concorso morale, visto che non ci sono né filmati né testimonianze che dimostrino che la donna stesse effettivamente tirando pietre contro le forze dell'ordine. Nonostante questo, Caselli ha chiesto la conferma della custodia cautelare in carcere perché secondo lui sussiste il pericolo di reiterazione del reato. Il legale della difesa ha invece chiesto la scarcerazione della sua assistita o l'applicazione degli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame dovrà decidere nei prossimi giorni, dopo che verrà discusso anche il caso di Marianna Valenti, arrestata anch'essa dopo gli scontri. La presenza del procuratore capo in persona nell'aula è apparsa quanto mai anomala, visto che tutti si aspettavano il pubblico ministero Quaglino, che si occupa della vicenda. Un'anomalia che guarda caso arriva proprio all'indomani della manifestazione di solidarietà che Luca Mercalli e Fabio Fazio hanno espresso sia al movimento Notav che alle due donne incensurate e detenute nel carcere di Torino. Un gesto, quello di Che tempo che fa, che ha messo in crisi, come dicevamo, gli esponenti del centrosinistra. In testa appunto l'onorevole Stefano Esposito, che ha fatto della TAV il suo unico, politicamente parlando, cavallo di battaglia. E vediamo ora come l'Italia, l'Italia della repressione, comincia a prepararsi a questo caldo autunno. Infatti sul newswire di Indymedia Roma leggiamo quello che fa Alemanno, il sindaco della città. Infatti ha pensato bene di vietare cortei, accentramenti, sit-in in numerose zone della città per salvaguardarne, a suo dire, chiaramente il valore storico-artistico. Valore storico-artistico che il più delle volte la sua amministrazione si è dimostrata incapace di comprendere e di tutelare. E adesso invece arrivano queste zone rosse diffuse un po' ovunque, a iniziare da Piazza Navona fino a Campo dei Fiori, giusto per citarne alcuni. E sono dunque vietata dunque ogni manifestazione di dissenso, dal gazebo al banchetto, dai sit-in all'accentramento. E tutto questo malgrado il protocollo sulle manifestazioni firmato da Questura e Comune contempli Piazza Navona a Campo dei Fiori come punti di arrivo o svolgimento di manifestazioni e di iniziative politiche e non. L'entrata in vigore del divieto è prevista per inizio ottobre, certamente la data non è casuale. Ricordiamo infatti che il 15 ottobre, così come in tante altre città d'Europa, è prevista una grande giornata di indignazione e di mobilitazione nazionale. Iniziative che si succedono in attesa che giunga il 15 ottobre però diventano sempre più fitte in tutta Italia. Per esempio oggi, nel momento in cui andiamo in onda, a Cosenza è prevista una manifestazione per protestare contro la crisi e contro questa finanziaria di sangue. Infatti sono previste per ogni venerdì fino al 15 ottobre appunto delle manifestazioni similari sempre nella città Bruzia. Certamente questo è solo uno dei tanti episodi che porteranno alla manifestazione del 15, che speriamo possa essere grande, partecipata e diffusa. Certamente non riusciamo oggi a darvi conto di quello che è accaduto a Cosenza, ma speriamo nei prossimi giorni, nella prossima puntata di Indie Radio, di potervi dare maggiori informazioni e magari, perché no, anche qualche intervista raccolta sul campo. We'll be right back. took everything, everything I had given. Oh, sweet 16, built a moon for a rocking chair. I never guessed it would rock up my wrong. Sul Newswire di Indymedia Calabria il 19 settembre scorso è stato pubblicato un articolo relativo alla fine della protesta a Cutro. Si è infatti conclusa questa protesta dei lavoratori dell'ETA di Cutro, che erano in cassa integrazione da 4 mesi. I lavoratori sono scesi dalla ciminiera alta 56 metri dopo che il gruppo Marcegaglia, proprietario di questo impianto, ha assicurato che la produzione continuerà nei tempi e nei modi che spiega l'amministratore delegato di ETA, Roberto Garavaglia. L'accordo è stato raggiunto dopo un incontro in prefettura a Crotone, a cui hanno partecipato anche il prefetto Vincenzo Panico, la vicepresidente della regione Antonella Stasi e i sindacati. Questa storia speriamo possa essere realmente una storia a lieto fine. E anche per questa volta Indie Radio finisce. Noi vi diamo appuntamento al prossimo venerdì, sempre alle 21, e vi ricordiamo la possibilità di seguirci in replica ogni sabato alle 12 circa. Vi ricordo infine che Indie Radio è un programma aperto, quindi chiunque di voi può contattarci per dare il proprio contributo, che può essere anche un file audio, o comunque può darci dei consigli e dei suggerimenti utili contattandoci alle nostre mail list di riferimento, che potete trovare sul sito di calabriaindymedia.org. Un saluto a tutti e arrivederci. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. es verdad. Pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Por lo que ellos querían. Y no nos van a parar. ¿Qué es lo que ellos querían? Están aquí con nosotros, luchando por lo mismo. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Paparias de la tierra, en pie famélica legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastro del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los narradores todo han de ser. Abruémonos hoy en la lucha final. El género humano, el daño.